Nessun luogo. Nessun luogo. È lontano. Di Giampaolo Musumeci. Buona giornata, gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori, un buon weekend da parte mia, Giampaolo Musumeci, ma anche da parte di Antonio Talia, Elisa Pancaldi che sono in redazione, Carmela Lauricella che sta confezionando questo meglio di Nessun luogo è lontano. Oggi riascoltiamo quello che è accaduto durante la settimana, il meglio dell'attualità internazionale, i racconti più interessanti che vi abbiamo offerto. Iniziamo subito con un approfondimento sull'immigrazione. Un vero e proprio dossier sui numeri, sulle rotte, sui meccanismi che regolano questo fenomeno. L'immigrazione è la più formidabile leva elettorale che ci sia. L'immigrazione muove voti. Con l'immigrazione si parla alla pancia, si distorcono i fatti, si inventano i numeri e si stuprano le leggi. Con l'immigrazione si polarizza il dibattito politico trasformandolo in una guerra fra cosiddetti buonisti e cosiddetti realisti. Molti giornalisti in Italia, senza generalizzare per carità, non stanno facendo un buon servizio ai cittadini. La narrativa sull'immigrazione è spesso falsa, spesso avviene con dolo, se non superficiale e ridotta a slogan. Chi parla di immigrazione spesso non ne sa nulla, non ha mai messo piede su una nave di un ONG che salva i migranti, non ha mai messo piede in Libia, non ha mai visto il deserto del Sahara, non ha mai lavorato nei paesi dell'Africa subsahariana, quei paesi in cui dovremmo aiutarli a casa loro, non ha mai parlato a un trafficante. L'immigrazione non è un'emergenza, è strutturale, lo è da anni, e chi la chiama invasione, numeri alla mano, sbaglia e lo fa coscientemente. Il dibattito e la narrazione sono avvelenati e questo non fa bene a chi vuole comprendere il fenomeno. Un'ultima menzione, mi permetterete. La parola chiave in questo caso è vuoto. Tanto si dibatte sul ruolo delle ONG. Le ONG sono lì davanti alla Libia perché non ci sono altri attori, perché c'è un vuoto istituzionale, perché non ci sono le marine degli stati europei. Così come i trafficanti di uomini lavorano perché c'è un vuoto. Stati europei che non danno la possibilità a chi avrebbe diritto a un ingresso legale in Europa e di esercitare quel diritto. Il vuoto, così, è riempito dalle organizzazioni criminali. Per quello in tanti invocano i corridoi umanitari. Attenzione, qui non è una questione di essere buonisti, ma di essere pratici. Il Mediterraneo vale centinaia di milioni di euro ogni anno, tutti soldi in nero che finiscono nelle tasche dei trafficanti, soldi non tracciabili, soldi che possono finanziare altri business criminali, armi, droga, terrorismo, tutto possibile perché semplicemente non lo sappiamo. E per parlare di leggi ci soccorre Gianfranco Schiavone, che è vicepresidente del Consorzio Italiano di Solidarietà e consigliere dell'ASGI, che è l'Associazione di Studi Giuridici sull'Immigrazione. Gianfranco Schiavone, buongiorno, benvenuto a Nessun Luogo Lontano. Buongiorno a tutti. Allora, per mettere un po' di punti fermi sul dossier immigrazione, la prima domanda che le farei: quali sono le fonti giuridiche per capire cosa accade, per osservare il fenomeno migratorio? Quali sono i punti di riferimento a cui dobbiamo guardare? Ma i punti di riferimento che dobbiamo guardare, ovviamente, nel caso degli arrivi che stiamo parlando, cioè degli arrivi via mare, sono essenzialmente il diritto internazionale marittimo, il diritto sul soccorso in mare da un lato e il diritto internazionale sui rifugiati dall'altro. Se vogliamo, un ruolo fondamentale e ai noi adesso vizioso lo gioca il regolamento Dublino. Il regolamento Dublino fondamentalmente dice che il migrante che tocca il primo paese toccato dal migrante è il paese in cui il migrante deve eventualmente, se vuole, se ha titolo, esercitare il suo diritto d'asilo. Questo crea chiaramente per i paesi di frontiera, di prima linea, tra virgolette, evidentemente una pressione molto molto forte. Ci sono stati negli anni vari tentativi di cambiamento, proposte di cambiare questo regolamento Dublino, al momento però la questione è ferma. Gianfranco Schiavone. Quello che li fa è corretto, salvo l'ultima parte, cioè veri tentativi di cambiarlo fino ad oggi non ce ne sono stati. La consapevolezza della necessità di un nuovo paradigma giuridico completamente diverso è emersa, insomma, nella Commissione europea e nel Parlamento solamente nel corso degli ultimi mesi, e adesso in effetti sono depositati al Parlamento europeo dei testi sono in discussione dei testi che modificano questo principio, che è un principio che il regolamento è stato modificato varie volte, ma di fatto il principio che lei giustamente ha citato risale al 1990, cioè un'epoca storica completamente diversa, ed era finalizzato a un obiettivo che tutti possono comprendere, e cioè a cercare di riequilibrare una presenza fra gli stati del centro-nord dell'Unione Europea e gli stati del sud, o che avevano comunque confini esterni all'Unione, dove praticamente i rifugiati non esistevano. Oggi non solo questa esigenza non c'è più, ma appunto l'applicazione rigorosa del regolamento finirebbe per convogliare appunto sugli stati di frontiera praticamente tutte le domande di asilo, cosa che è impossibile. Quindi il vero motivo della crisi su cui ci dibattiamo è questo non detto e non discusso, no, dalla stampa, regolamento Dublino, ed è lì che la politica dovrebbe concentrare i propri sforzi, cioè andare a modificare le regole europee per attuare una redistribuzione delle presenze dei richiedenti asilo sulla base del principio di solidarietà indicato nel Trattato del funzionamento dell'Unione Europea. In tantissimi di questi canotti o barconi sono presenti bambini, sono presenti donne che sono state stuprate molto spesso per mesi, sono presenti persone ferite, molto spesso hanno ancora proiettili nelle gambe, perché forse non tutti sanno, ma i trafficanti libici obbligano le persone a partire. Ho intervistato e ho conosciuto migranti che a un certo punto mi dicevano: io quando è stato il momento di salire sul barcone ho avuto paura, perché quel canotto evidentemente non avrebbe sopportato il mare, ho cercato di scappare e hanno sparato. Innanzitutto, quando parliamo di pericolo in mare, non intendiamo l'imminente pericolo, ma la valutazione, che può essere fatta in maniera molto oggettiva, se quel natante è in grado di navigare o senza necessariamente sapere se è a rischio di affondamento fra un'ora, fra due ore o fra 10 ore. E noi parliamo di barche che sono tutte non in grado di affrontare quella navigazione, quindi di per sé sono in condizioni di pericolo. Nessun luogo lontano si ferma, ma restate con noi perché è solo una piccola pausa. Axerta indaga, documenta, accerta. www.axerta.it vi presenta. Nessun luogo è lontano. Eccoci, questo è sempre Nessun luogo è lontano, la versione del weekend in cui andiamo a ripercorrere le puntate più interessanti, i temi più intriganti che abbiamo affrontato durante la settimana. Continuiamo a parlare di immigrazione perché le due puntate che abbiamo dedicato al fenomeno hanno suscitato una serie di commenti sui nostri social. Abbiamo cercato di capire le cause e gli effetti del fenomeno migratorio anche sulle relazioni tra i vari paesi che sono interessati da questo fenomeno. Ascoltate. Giacomo Zandonini, che inizia a conoscere piuttosto bene il Niger, fra l'altro è fresco, se così si può dire, vista la temperatura di ritorno dal paese. Agadez una volta era la grande porta del deserto, però poi qualcosa sta cambiando nel paese, nell'importante paese africano. Giacomo. Sì, assolutamente, il cambiamento è grosso e siamo dentro questo cambiamento. Fino, come dicevo ieri, fino all'estate scorsa, tutto accadeva ad Agadez sotto la luce del sole. Ogni lunedì, all'interno di un convoglio militare in partenza da Agadez verso Dirku, questo avamposto militare in direzione della Libia, si inserivano nel convoglio militare, quindi scortati dai militari del Niger, decine di pick-up carichi di migranti. E la cosa è improvvisamente cambiata dallo scorso settembre, quando il governo nigerino, con anche un supporto significativo dell'Unione Europea, della missione civile dell'Unione Europea soprattutto, attiva da alcuni anni nel paese, ha deciso che finalmente era il momento di implementare una legge che già esisteva per contrastare il traffico e la tratta di persone, e quindi ha iniziato ad arrestare degli autisti soprattutto, poi anche dei facilitatori, chi insomma dava anche ospitalità ai migranti, e rendendo in qualche modo sempre più nascosto il fenomeno migratorio. Dobbiamo ricordare e sottolineare che ogni volta che trattiamo e parliamo di immigrazione stiamo parlando di milioni e milioni di euro ogni anno. Le statistiche dicono che si tratti del secondo business al mondo dopo la droga, e quindi è importante perché ogni azione o non azione, non solo da parte dell'Unione Europea o degli Stati Europei, ma anche africane, delle polizie africane, ha comunque un impatto su questo business, e non sempre l'impatto è risolutivo, anzi molto spesso i trafficanti, che sono agili, sono veloci, sono flessibili, hanno reazioni, e ovviamente non devono tenere conto della legge, hanno reazioni che sono immediate, mentre molto spesso l'Europa, no, organizza summit su summit e poi invece decide molto molto poco. Giacomo Zandonini, come funziona la rete nigerina dei trafficanti che guarda Deserto e Sahara? Sono piccoli trafficanti, piccoli autisti con mezzi che approfittano del business che è così goloso? Di che etnia sono? Raccontaci meglio di questa rete che lucra su questo business. Sì, sicuramente diciamo per noi è appunto una rete che lucra. Poi dal punto di vista, come insomma tu ben sai, degli stessi protagonisti è semplicemente spesso un lavoro, un impiego effettivamente remunerativo per il paese più povero del mondo, agli ultimi posti della classifica dello sviluppo umano sempre. E chi gestisce, diciamo, chi realizza poi materialmente i passaggi sono in gran parte persone di etnia Tubù, che è questa etnia che vive fra Libia, Chad e Niger, di origine nomade e che conosce molto bene il deserto, anche comunque insomma gestisce anche commerci attraverso il Sahara, e rappresentano, secondo le stime che mi hanno fatto alcune persone, circa sicuramente una maggioranza, forse addirittura l'80% degli autisti sono Tubù, e i restanti sono prevalentemente Tuareg. Giacomo Zandonini, l'ultima domanda per te è: cosa succede ai migranti, quando, ma anche ai trafficanti, quando vengono fermati in queste nottate di guardie e ladri ad Agadez? Cosa succede al trafficante e cosa succede al migrante? Il trafficante fermato viene portato in carcere, generalmente, a meno che non abbia delle buone conoscenze, insomma, che gli evitino delle pene che sono anche severe, arrivano oggi fino a 15 anni. Il timore principale, tutti i trafficanti mi hanno, insomma, con cui ho parlato, loro hanno questo timore, che è una pena di minima di 5 anni, e quindi qualcuno ha anche lasciato oggi, da quando questa legge è stata applicata veramente, ha smesso di fare questo lavoro, insomma. E quello che succede d'altra parte ai migranti è che generalmente vengono bloccati, o insomma in qualche modo il viaggio chiaramente viene interrotto. Alcuni vengono portati, se sono in situazione di difficoltà, perché spesso si rimane giorni anche nel Sahara, appunto perché cercando di evitare i posti di blocco diventa molto più pericoloso viaggiare. E questo è un effetto, insomma, secondario ma molto importante anche di queste politiche: si prendono vie più pericolose e quindi si rischia la vita in modo molto maggiore. E quindi in questi casi le persone che magari sono in stato anche di salute molto precario vengono portate in base militari, vicine per essere curate al momento, o portate nei centri di transito dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, che ne ha 5 nel paese, ma in particolare 3 nella regione di Agadez, quindi lungo le rotte migratorie, e le persone lì possono chiedere un aiuto per essere rimpatriate, per tornare nel proprio paese, o se desiderano invece continuare il viaggio è estremamente facile ricontattare qualcuno che ti farà, cercherà di farti proseguire nonostante tutti questi rischi e difficoltà che poi incontri nel deserto e poi in Libia. Adesso però io, cari ascoltatori, voglio proporvi un altro caso di scuola, perché avete invocato il modello australiano. E tutto inizia nel 2013 col governo di centrodestra di Tony Abbott, che a un certo punto dice: qua non sbarcherà più nessuno. Perché? Perché la rotta era quella che fondamentalmente partiva dai paesi dalla costa del sud-est asiatico, dall'Indonesia, quindi afghani, pakistani, Bangladesh, eccetera, e tentava di arrivare in Australia. Nel 2014 un controverso spot, che è stato trasmesso in parecchi paesi ma anche su YouTube, recitava più o meno così. It is the policy and practice of the Australian government to intercept any vessel that is seeking to illegally enter Australia. If you travel by boat without a visa, you will not make Australia home. Come sentite, questo è il capo della polizia del mare, del guardia coste australiano, che dice: se pensate di arrivare in barca senza un visto a posto sul vostro passaporto, non farete mai dell'Australia la vostra casa. Poi che cosa ha fatto l'Australia? Ha fondamentalmente esternalizzato, ha decentrato tutte le richieste di asilo nell'isola di Nauru. Allora, è legale dal punto di vista del diritto internazionale che l'Australia deleghi l'espletazione della domanda d'asilo a un paese terzo? L'abbiamo chiesto a Giuseppe Giuseppe Nesi, che è preside della Facoltà di Giurisprudenza e professore di diritto internazionale all'Università di Trento. Sentite. Qualsiasi Stato è ovviamente padrone di esercitare i poteri sovrani che gli spettano nel modo che ritiene più adeguato. E da questo punto di vista non esistono divieti a carico dell'Australia rispetto alla valutazione dello status di coloro che richiedono asilo. Allo stesso tempo non si può ignorare che nel momento in cui uno Stato delega a un altro Stato lo svolgimento di attività che sono proprie invece del primo, assume anche la responsabilità di quello che lo Stato che attua, che mette in essere determinati controlli ha. E quindi bisogna, nel caso in specie, immaginare che non sia questa la soluzione ideale. E quindi io credo che difficilmente queste soluzioni siano riproducibili in altri scenari, fermo restando che comunque, come dicevo poc'anzi, lo Stato che delega, in base a tutti i principi giuridici che caratterizzano la delega, risponde di quello che l'altro Stato, lo Stato delegato, pone in essere. Ovviamente la fattispecie, ripeto, è precisa, è particolare, non è facilmente riproducibile, non è vietata, ma io credo che ogni Stato dovrebbe cercare di esercitare autonomamente, direttamente, determinate prerogative che derivano da obblighi internazionali o di diritto internazionale consuetudinario. Allora, era la voce del professor Giuseppe Nesi, che insegna diritto internazionale a Trento e anche preside della facoltà di giurisprudenza, che ho tentato di solleticare maggiormente sulla replicabilità di quel modello che da alcune parti è stata invocata per risolvere la crisi migratoria Libia-Italia. Sentite. Ecco, questa cosa, ripeto, teoricamente sarebbe replicabile, ma il vero problema è che qualsiasi Stato rinunci a esercitare determinate prerogative, determinate attività che sono proprie dello Stato stesso, deve essere pronto a subire le eventuali denunce e quindi anche la eventuale responsabilità sul piano internazionale qualora lo Stato che viene delegato commetta dei reati oppure si comporti in maniera non conforme al diritto internazionale rispetto ai richiedenti asilo. Sarebbe necessario avere dei centri di accoglienza che siano degni di questo nome. Bisognerebbe immaginare di seguire determinate modalità, di seguire determinate procedure che siano trasparenti anche da un punto di vista internazionale, e solo a queste condizioni si potrebbe immaginare che la valutazione della domanda possa avvenire secondo le procedure previste dal diritto internazionale. Il lungo approfondimento sull'immigrazione si conclude qui, restate però con noi perché facciamo una piccola pausa e poi di nuovo Nessun Luogo Sarà Lontano. Avrei voglia di un giallo, anzi, di un thriller da paura. Io di una commedia, qualcosa di leggero, che faccia ridere. Io vorrei immergermi in un romanzo introspettivo e disturbante. Sono Alessandra Tedesco, il cacciatore di libri, e quest'estate vi farò compagnia con i consigli di lettura. Vi aspetto ogni sabato alle 6.30 alle 22, la domenica alle 16.15 alle 20.45, dal lunedì al venerdì edizione Flash alle 13.10. Non avete preso appunti? Niente paura. Trovate tutto, compreso il podcast, su radio24.it. Nessun luogo è lontano. Ben ritrovati, questo è sempre Nessun Luogo è Lontano, ancora un buon weekend, gentili ascoltatrici e gentili ascoltatori. Vi ripropongo la riflessione e la finestra che abbiamo aperto sull'Afghanistan, in particolare del rapporto fra i talebani e lo Stato Islamico in Afghanistan. Ascoltate. I porti in Afghanistan, in particolare nelle regioni del nord, la provincia di Sarail-Pul, distretto di Sayyad, perché il New York Times ha riportato recentissimamente di un attacco che avrebbe lasciato sul terreno almeno 50 morti. A condurre l'offensiva sarebbero stati i talebani, ma in collaborazione degli elementi dello Stato Islamico in Afghanistan. Il governatore di Sayyad, Amin Yar, ha precisato che i due gruppi sarebbero stati guidati rispettivamente dal Mullah Nader e da Sher Muhammad Ghazanfar. Tra i 50 morti, 18 membri della polizia afghana, il resto sarebbero civili. Però c'è un giallo in questa vicenda. Il portavoce talebano ha immediatamente smentito la collaborazione, mentre il governo ha negato che vi sarebbero stati vittime civili. Perché vi parliamo di questa inedita, se confermata, collaborazione fra i due gruppi di insorgenti? Perché talebani e militanti dello Stato Islamico in Afghanistan erano fino adesso acerrimi nemici, e il motivo ovviamente da preoccupazione per chi segue l'area. Pensate, due attori così importanti, così potenti, soprattutto i talebani, che a un certo punto minacciano la stabilità del paese. A ben vedere, ad aprile, i più attenti osservatori del paese forse lo ricorderanno, il generale Nicholson, capo delle operazioni militari appunto in Afghanistan, aveva messo in guardia sulla possibilità di una comunione, una convergenza di gruppi armati, di diversi gruppi armati nell'area. Sentite che cosa ne pensa Fabrizio Foschini, che è analista per Afghanistan Analyst Network, su questa appunto possibile, presunta alleanza tra ISIS e Taliban, raccontata al New York Times, ma poi nonostante la smentita del portavoce talebano. Allora, innanzitutto si tratta di stabilire da subito che il portavoce ufficiale dei talebani, Sabihullah Mujahid, ha smentito che il comandante degli insorgenti, dei ribelli coinvolto, questo Sheikh Mohammad Ghazanfar, appartenga effettivamente a Daesh. Ha rivendicato la filiazione di questo Ghazanfar al movimento Taliban, e quindi ha semplicemente descritto l'azione come l'azione congiunta di due gruppi di ribelli, entrambi appartenenti, non entrambi affiliati ai Taliban. Quindi non c'è, per quanto mi riguarda almeno, non c'è stata una convalida ufficiale da parte del movimento Taliban, che anzi continua a ribadire che non collabora con Daesh, e anche preso le distanze da quello che sembra essere uno dei rivolti più tragici di questa offensiva militare dei ribelli, ovvero il massacro di prigionieri, sia membri delle milizie paramilitari di difesa filogovernative, sia sembra di civili del villaggio di Mirza Olang. Sì. Per quanto riguarda i Taliban non c'è nessuna conferma sul fatto che ci sia effettivamente un'alleanza di intenti, un'alleanza dichiarata tra i Taliban e Daesh. Per quello che riguarda la zona, bisogna ribadire che nel nord dell'Afghanistan, nella provincia di Sarail-Pul, è una provincia del nord dell'Afghanistan, la zona nord, abitata prevalentemente da minoranze etniche non pashtun, quindi la componente etnica principale della provincia sono gli uzbeki, ci sono molti tagiki, ci sono molti azara. La maggior parte dei combattenti taliban locali riflettono la composizione multietnica della provincia. Rimane il fatto che rispetto alle zone del sud del paese o dell'est del paese a predominanza pashtun, e dove il movimento taliban ha trovato una forte empatia anche per motivi di tipo etnico, comunque motivi di identificazione più facile per via dell'origine storica del movimento taliban negli anni 90 nelle zone pashtun del paese, e una certa connotazione etnica pashtun, almeno in passato. Nel nord invece i taliban hanno avuto inizialmente molte difficoltà a reclutare tra le minoranze etniche. Solo a partire dal 2002, dopo la caduta dell'emirato Taliban in seguito all'intervento internazionale, e al momento in cui hanno cominciato a cercare di costruire delle reti di ribelli, delle reti di guerriglieri, a metà degli anni 2000 si sono riaffacciati nelle province del nord. A quel punto i comandi Taliban hanno capito la necessità di reclutare fra le minoranze etniche nella regione per avere un supporto, diciamo, più popolare. E in effetti si può dire che adesso la maggior parte dei combattenti Taliban nel nord, in queste province come Saripul o Faryab, riflettano la multietnicità della zona, quindi ci sono molti uzbeki, molti tagiki. Chiaramente l'unica etnia nella quale il reclutamento Taliban è votato al fallimento è quella degli Hazara, perché la differenza di tipo di appartenenza religiosa pone un ostacolo maggiore rispetto all'adesione al movimento Taliban. Certo. Mentre le altre comunità, come appunto tagiki e uzbeki, sono state spesso raggiunte da questo reclutamento, da questa propaganda Taliban, anche perché la regione è molto povera e non mancano alcuni dei motivi, diciamo, più sociali per cui molti giovani disoccupati, ex combattenti o persone che vivono la situazione attuale come esclusione da ogni beneficio, ogni servizio governativo e hanno visto male nello scorso decennio la presenza di truppe internazionali, vengono più facilmente reclutate. Eravamo con Fabrizio Foschini, che è analista per Afghanistan Analyst Network, in cui fondamentalmente, insomma, la tesi di Fabrizio è che questa ambiguità a livello locale, anche di capi, di dirigenti, di piccoli leader, sia Taliban che dello Stato Islamico in Iraq, possa portare a convergenze, come dire, occasionali e a reclutamenti facili da parte dei due attori. Sentite. Esatto, è ancora presto, secondo me, almeno per me, è ancora presto per valutare se effettivamente ci sia stata un'alleanza, almeno a livello locale, una deliberata alleanza e appunto un attacco in comune, in collaborazione tra comandanti Taliban e comandanti esplicitamente affiliati sia al Daesh. È possibile che dei comandanti, voglio dire, tengano i piedi in due staffe, fossero affiliati in passato, qualche anno fa, nominalmente ai talebani, avessero ricevuto aiuti dai Taliban, ma siano anche molto vicini, molto prossimi ideologicamente, abbiano contatti con il Daesh, e questo permette al Daesh di rivendicarli come propri. E questo era Fabrizio Foschini. Vi faccio sentire al volissimo una breve analisi di Claudio Bertolotti. Quanti sono, chi sono i Taliban, qual è la loro potenza di fuoco? Claudio Bertolotti, analista strategico e ricercatore associato di ISPI e Space. Sentite. L'entità dei talebani oggi può essere fatta con una stima, ma tutto sommato approssimativa. Parliamo di 35-50 mila unità come minimo, in grado di muoversi e operare sul territorio afghano, utilizzare anche aree del Pakistan come base di riposo e di assistenza logistica. E tutto questo tenuto conto che i talebani, a partire dal 2001 a oggi, cioè in oltre 16 anni di conflitto, hanno subito 45.000 caduti. Che vuol dire che il numero dei combattenti sul campo di battaglia è sostanzialmente aumentato in maniera progressiva negli anni. Sono combattenti che combattono per una guerra di liberazione nazionale. A questi si affianca una consistente parte di altri gruppi di opposizione armata in un rapporto di collaborazione e competizione con i talebani veri e propri, grado anch'essi di potersi muovere sul campo di battaglia afghano. Buongiorno e ben ritrovato nel suo luogo lontano anche Giuliano Battiston, ricercatore, giornalista freelance. Giuliano, buongiorno, ben ritrovato a Nessun Luogo Lontano. Mi sembra di poter dire che la parola chiave per spiegare quello che sta accadendo in Afghanistan è vuoto, cioè vuoto militare lasciato dalle forze internazionali, vuoto istituzionale perché il governo di Kabul è piuttosto fragile. Sconfortami, corroborami in questa analisi, così forse un po' manichea, ecco, che sto facendo. Esatta, perché la forza dei talebani oggi come ieri è proprio il deficit del governo, un governo paralizzato in un antagonismo tra il presidente Ashraf Ghani e il quasi primo ministro Abdullah Abdullah, che hanno litigato a lungo sui risultati delle presidenziali nel 2014 e poi sono stati costretti a un accordo per un governo di unità nazionale favorito dagli americani. In questo vuoto istituzionale i talebani hanno spazi di manovra molto, molto ampi. Più che l'ideologia e la dottrina contano i denari. Certo. E in questo periodo i talebani hanno meno denari a disposizione perché i tradizionali sponsor del Golfo hanno un po' dirottato parte dei loro finanziamenti extra-istituzionali, diciamo, verso un cavallo di battaglia che sembrava più forte, appunto, lo Stato Islamico, e si sono fatti lì invece altri, negli ultimi anni, altri finanziatori come ad esempio l'Iran. Quindi per la bassa manovalanza, per i militanti che non hanno orientamento ideologico ma che aspirano soltanto a portare a casa uno stipendio mensile, non conta tanto per chi si combatte quanto chi paga. Ed ecco che ancora una volta, con un po' di amaro forse, la parola vuoto diventa importante per descrivere quello che sta accadendo anche a livello del terreno, no, in Afghanistan, terreno dove dire aria, perché la mancanza di una solida aviazione degna di questo nome sicuramente è un problema per il governo di Kabul per andare appunto a contenere le spinte di talebani e Stato Islamica in Afghanistan. Ho un'ultima domanda per Giuliano Battiston. Il New York Times sta dedicando una serie di articoli alla crescente importanza dell'Iran nei vari teatri, non solo quello medio orientale, e insomma sta iniziando a infilare i piedini e le manine anche in Afghanistan. In che modo lo fa? E seconda domanda, uno dei mercati di sbocco del traffico di eroina che arriva, l'oppio, eroina che arriva dall'Afghanistan, è anche l'Iran. Non è certamente su una delle cause, diciamo, o delle giustificazioni, però aiutaci a capire meglio qual è il rapporto tra Iran e Afghanistan. Beh, il rapporto vanta secoli di storia, non è cominciato con l'occupazione militare americana, ha solo cambiato profilo con l'intervento militare. L'Iran in qualche modo reagisce a una presenza che ritiene ostile. L'Iran condivide un confine di migliaia di chilometri con l'Afghanistan e al di là di quel confine c'è la potenza americana, con un presidente come Donald Trump che non ha nascosto una fortissima ostilità contro il governo Rouhani. Qualcuno sospetta anche che le guardie della rivoluzione abbiano una mano nei traffici illeciti. Le stime e statistiche ufficiali dicono che la polizia di frontiera iraniana fa un lavoro molto duro e molto difficile nel contrastare il traffico di droga, ma non è escluso che alcuni settori dell'establishment della sicurezza possano avere appunto un interesse nel favorire questo traffico. Grazie mille Giuliano Battiston per essere stato con noi, grazie della tua analisi come sempre puntuale. Ricordo, giornalista, freelance, ricercatore, autore di Arcipelago Jihad, lo Stato Islamico e ritorno di Al-Qaeda, una lettura che vi consiglio se volete saperne di più su questi temi. Allora facciamo una piccola pausa, lasciamo le montagne tra Afghanistan e Pakistan, una breve pausa e poi vi porto in Kenya. Nessun luogo è lontano. Ben ritrovati, questa è l'ultima pagina di Nessun luogo è lontano. Adesso recuperiamo la puntata in cui vi abbiamo raccontato delle elezioni in Kenya, ma anche del rapporto con un paese confinante, la Somalia, con cui c'è una relazione a dir poco tesa. He's known for his charisma, embracing social media to talk to Kenyans, and despite his personal wealth, has established himself as a man of the people. But Uhuru Kenyatta's first term as president has not been without controversy. He entered office denying charges at the International Criminal Court of crimes against humanity. Kenyatta and Deputy President William Ruto were accused of instigating violence. Come ricordava anche il Washington Post molto molto recentemente, il voto è estremamente polarizzato e gli ultimi giorni di campagna elettorale pare che a poco servano a spostare gli equilibri. Insomma, difficile cambiare idea. Da notare, è importante, la popolazione dei votanti, a dispetto al quantomeno del secondo candidato, è estremamente giovane. Per l'80% della popolazione keniana è sotto i 35 anni. Più del 50% dei 19 milioni di votanti è proprio sotto quella soglia. Poi, oltre allo spettro di possibili violenze, lo ricorderete nel 2007, i risultati contestati portarono a più di 1000 morti. C'è un altro tema che campeggia, per esempio, su Jeune Afrique, che, se lo leggete, è un magazine settimanale cartaceo in francese sull'Africa, ma esiste anche una versione online, e racconta l'inquietante fenomeno delle fake news, cioè delle false notizie che sono state messe online. Ve ne leggo una che è particolarmente indicativa, questa è apparsa su alcuni siti, e praticamente disegna e tratteggia quello che sarà il Kenya nel 2020. E l'articolo, molto spesso questi articoli recano finti o simili loghi a BBC e CNN, quindi per dare l'idea, insomma, di essere veritieri, insomma, tratteggia un Kenya nel 2020 con Raila Odinga presidente a vita, una costituzione revocata e un parlamento sciolto. Non c'è più acqua, non c'è più denaro e il gruppo terrorista somalo Al-Shabaab controlla il nord-est del Kenya. Tutto questo per dire che è una campagna elettorale che è stata combattuta con tante armi. C'è chi punta il dito contro i due candidati dicendo: attenzione, i discorsi sono stati fin troppo carichi di odio nelle ultime settimane. Le fake news, la propagazione di informazioni false, fanno parte di questa di questo gioco, di questa campagna. Ma cosa ce ne importa delle elezioni in Kenya? Beh, Maltauro, azienda italiana delle costruzioni, avrebbe concluso una commessa in Kenya da 390 milioni di dollari per la costruzione di una cittadella altamente tecnologica al di fuori di Nairobi. Ecco, questo per dire come molto spesso paesi apparentemente lontani sono motivo di interesse anche per le aziende e per l'apparato industriale italiano. Detto ciò, è un paese importante, un paese relativamente pacifico da anni. È vero che c'è il dossier somalo, perché l'esercito keniano è impegnato in prima linea ormai da 4 anni contro i militanti da Shabab, perché i due paesi confinano, perché il porto di Kisimayo è molto importante, perché vi sono state scorribande, rapimenti e azioni terroristiche in territorio keniano, e a un certo punto Nairobi ha detto basta e ha coinvolto in maniera massiccia anche l'esercito. La campagna elettorale dei due candidati si è giocata su alcuni binari, su alcuni dossier che sono sul tavolo dell'importante paese africano. Alcuni sono di politica estera, ma ne parleremo dopo. Però è chiaro che la politica interna è quella che ha spadroneggiato. Kenyatta ha promesso, per esempio, 1 milione di posti di lavoro nel paese. Stiamo parlando della seconda più grande economia in tutta la regione, ma comunque di un paese che ha almeno il 20% di tasso di disoccupazione. L'altro grosso problema è il costo della vita. Ebbene, Kenyatta ha promesso di andare a lavorare su questi fattori. L'altro grande problema che accomuna altri paesi africani è il problema della corruzione. L'organizzazione Transparency International ha posizionato il Kenya al 145esimo posto su 176 nel 2016 nella speciale classifica della trasparenza e dell'assenza di corruzione. Il rivale Odinga ha detto che vi sarà lotta senza quartiere, appunto, alla corruzione. Per avere lumi e per capire meglio qual è la relazione tra Kenya e Somalia, do il buongiorno e ben ritrovato a Nessun Luogo Lontano a Emilio Ernesto Manfredi, analista, ricercatore, lavora per International Crisis Group e ha uno spiccato animo da romanziere. Vi ricordo il suo libro La vita è brutale e poi muori, edito da Mondadori. Però Emilio, ben ritrovato a Nessun Luogo Lontano. Grazie. Allora, hai frequentato e conosci molto bene il teatro sia somalo che keniano. Stavamo parlando dell'impegno dell'esercito keniano in Somalia, perché a un certo punto, complici gli attacchi in territorio keniano, complice l'importanza di quella fascia costiera, in particolare del porto di Kisimayo, gli scarponi keniani hanno messo piede appunto sulle sabbie somale. Cioè, aiutaci a capire l'importanza di quell'intervento appunto da parte di Nairobi in Somalia. Tutto comincia nell'ottobre del 2011, quando dopo una lenta preparazione con il supporto di alcuni clan del sud della Somalia, unilateralmente il Kenya entra nel sud della Somalia con l'idea di creare una sorta di buffer zone tra le aree controllate da Al-Shabaab e la frontiera keniota che è importante perché all'interno, nella zona nord e nord-est del Kenya, vi è una rilevante comunità di etnia somala che dall'indipendenza vive ed ha passaporto keniota. Sì. Questa operazione poi un anno dopo viene integrata nella missione AMISOM, quindi nella missione dell'Unione Africana e delle Nazioni Unite, ma da allora i progressi di questi circa 4.000 soldati kenioti nel sud della Somalia sono incostanti, per dirla gentilmente, sì. Nel senso che è stata liberata la capitale, diciamo, del sud del Jubaland, Kisimayo, ed alcuni punti chiave all'interno del territorio, ma tutto il resto del sud somalo rimane ampiamente nelle mani di Al-Shabaab, che infatti continua a essere capace di portare degli attacchi sulla frontiera keniota somala e anche all'interno del Kenya stesso, soprattutto nella zona di Lamu e della Boni Forest, che sono note anche per essere un luogo importante di turismo. Certo. Quindi tutto questo non ha l'intervento keniota in Somalia ha avuto il desiderio di risolvere il problema della vicinanza di Al-Shabaab alla frontiera keniota, ma non ha fatto altro che portare in qualche misura il problema anche a casa, come si è visto poi nel 2013 con l'eclatante attacco terroristico al centro commerciale di Westgate e con tutta un'altra serie di attacchi negli anni a venire, da ricordare quello nel nord, nella città principale del nord, a Garissa, contro la scuola, sì, la scuola tecnica, sì, che costò la morte a molti studenti. Sì. Dunque, quindi, la situazione è ancora assolutamente in divenire e all'interno della società civile e anche della classe politica keniota esiste oramai un lungo, annoso dibattito su che cosa si debba fare con la presenza appunto della missione militare keniota all'interno della Somalia: rimanere o andare via. Vi stiamo raccontando la presenza militare keniana in territorio somalo, che ha creato una strana, ambigua economia di guerra parallela, che ci sta per raccontare Emile Ernesto Manfredi, ricercatore analista, lavora fra gli altri per International Crisis Group. Emilio, ben ritrovato. Raccontaci un po' cosa accade in quel confine che prima stavi tratteggiando. Ma accade che appunto dal 2012 l'esercito keniano riprende il controllo del porto di Kisimayo. Il porto di Kisimayo è un luogo di grande passaggio di merci, tra cui zucchero, veicoli, pasta, olio da cuocere, riso e tante altre cose, anche stupefacenti, si dice. Una buona parte di questi prodotti entrano nel mercato del Kenya, ma devono attraversare per raggiungerlo i territori del sud, che sono ancora controllati dal Shabaab. Allora, la forza militare keniana che è incaricata, diciamo, che ha mandato di combattere al Shabaab e di eliminare il pericolo dalla terra alla frontiera del proprio paese, in realtà si dice affari, ed è abbastanza stato verificato da molti ricercatori, sì, fa affari con Al-Shabaab stesso, perché soprattutto lo zucchero, ma anche molti altri prodotti ad uso commerciale che entrano in Kenya illegalmente vengono portati da Kisimayo dentro al Kenya sui veicoli militari e passano in accordo con Al-Shabaab per i territori controllati da Al-Shabaab, a cui l'esercito keniano paga una sorta di pecca, diciamo, una, sì, sorta di tassa per permettere appunto questo passaggio. Dunque si crea un'economia di guerra molto complicata e molto oscura, per cui dietro la lotta al terrorismo e la lotta alla minaccia di Al-Shabaab nei confronti del territorio keniano si annida anche un interesse dei capi militari e anche di alcuni capi politici keniani a mantenere le truppe all'interno della Somalia, perché questo business possa continuare ad alimentare un grosso esteso sistema di tocca, insomma, i gangli importanti dello Stato keniano. Grazie mille. Emile Ernesto Manfredi, analista politico, ricercatore per International Crisis Group. Ricordo anche il suo libro La vita è brutale, poi muori, di Mondadori, un romanzo bello, a me è piaciuto, ve lo consiglio, ottima lettura estiva, un po' cruda se volete, come avete sentito dal titolo, ma tant'è. Grazie mille Emilio, buon lavoro. Grazie anche a voi. Il meglio di Nessun Luogo Lontano finisce qui. Io vi aspetto, ve lo ricordo, dal lunedì al venerdì in diretta alle 16, in replica alle 6 del mattino e alle 20 di sera, sempre qui su Radio 24. Vi ricordo la pagina Facebook è Nessun Luogo Lontano trattino Radio 24, Twitter il mio personale Giampaz, ovvero Nessun Luogo 24. Intanto un buon weekend da Giampaolo.